E questi nostri fratelli e sorelle che chiamiamo santi e sante, come sono arrivati al valico, avranno avuto anche una certa paura. Si dice che il santo Leopoldo Mandice di Padova, quando parlava della morte, quasi chiudeva gli occhi perché diceva: a me fa tanto paura la morte. E invece, quando è sopraggiunta, era felice come un bambino. Come un bambino che vestito a festa va alla sagra. I santi sono morti così tutti, perché si sentivano invasi da una gioia misteriosa. Incominciava il bello della loro vita e finiva il brutto. Finiva il brutto. Ci sono tante cose brutte nella vita. Non sempre siamo stati buoni, innocenti, non sempre abbiamo fatto bella figura davanti a Dio. E non sempre abbiamo dato buon esempio ai familiari, alla società. Sì, cose belle, cose brutte, ma a quel momento i santi sentivano che le cose brutte sparivano per sempre e ti veniva incontro, ti viene incontro il bello di Dio, il paradiso di Dio. Non è una fiaba il paradiso. Sentiamo anche noi quando qualcosa ci va bene, quando combiniamo qualche affare fatto bene, quando la coscienza ci loda nel profondo, sentiamo che c'è una realtà che ci trascende, che ci supera, una realtà pregna di gioia, di felicità. Il paradiso l'abbiamo già iniziato nel cuore quando siamo persone oneste e siamo buone, la coscienza è pura. Sentiamo che non è possibile che il nostro destino sia una tomba. Il nostro destino è Dio stesso. Il raggio della divinità non si può distruggere, è indistruttibile l'uomo. In questo elemento costitutivo, l'anima. Quindi io vedo persone che non sono più tanto giovani e dico: godete di questa esperienza che state facendo. Sono convinto che anche voi siete più felici, più contenti di essere al mondo adesso che non 10, 20, 40, 50 anni fa. Perché? Perché man mano che gli anni passano e si accorcia la distanza da quel valico, man mano noi ci realizziamo nel meglio del nostro essere. Ma il corpo ha gli acciacchi, ma il corpo ha bisogno del bastone, ma il corpo ha bisogno degli occhiali, il corpo! Ma noi col passare degli anni realizziamo il meglio di noi, l'elemento costitutivo dell'uomo, l'elemento caratteristico, non sono le gambe, ce le hanno anche gli animali le gambe, ne hanno quattro, le mucche, i cavalli, i buoi, le pecore, i gatti. No, man mano che noi andiamo avanti, il corpo non si realizza, poverino. Ho il diabete, altri disturbi. Ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, vero? Perché il corpo è materia. La materia è misurata ai giorni contati. Mentre il corpo si logora, guardate l'anima come invece si realizza. E siamo molto più buoni adesso che una volta. Se fossimo buoni adesso come una volta, quando avevamo 8, 10, 15, 20 anni, io penso che saremmo degli handicappati morali, perché la virtù soda, la virtù concreta, viene col passare degli anni. Sì, è capitato questo anche a me. Quando si è pensato di beatificare padre Filippo Bardellini di Ponton, quello che ha fondato un'opera per i deficienti, io mi sono sentito obbligato di chiedere informazioni perché non avevo mai lavorato per questo scopo. E ho chiesto a chi esperto, dice: guardi padre, lei deve conoscere tutta la vita di padre Filippo Bardellini, soprattutto gli ultimi 10 anni. Esaminarli bene, vorremmo dire col microscopio, esaminarli bene, attimo per attimo. Gli ultimi 10, ma io ho risposto: scusi, monsignore, ma padre Filippo gli ultimi 10 anni li ha passati in carrozzella, malato di cuore, vecchio. Ah, dice, non conta, non conta, lei deve esaminare gli ultimi 10 anni Esaminati quelli, vada pure indietro fino all'infanzia, fino a esaminare la condotta dei suoi genitori, possibilmente anche la condotta dei nonni per quelle notizie che si possono prendere, raccogliere dai testimoni o da documenti scritti. È stata una bella lezione. Quando ci penso io mi sento pieno di gioia, perché gli ultimi 10 anni... Io ci sono dentro, naturalmente, e anche qualcuno di voi c'è dentro in questi 10 anni. Sono quelli che dicono quanto uno è santo, gli ultimi 10. Ma sono in pensione, non sono più capace neanche di legarmi le scarpe. Stamattina ci ho impiegato 20 minuti a legarmi la scarpa. Potevi dirlo che venivo su io ad aiutarti. Tra due vecchi salterà fuori uno, no? Due vecchi faranno per uno almeno. Cosa vuole vecchio, neanche capace più di soffiarmi il naso? Quando il corpo si frusta, l'anima s'aggiusta. È un proverbio nostro, veneto. Non dimenticate che è così, questo è Vangelo. Col passar degli anni il corpo si logora, deve logorarsi, perché è dalla terra che trova il suo nutrimento e la terra deve tornare. Ma lo spirito che ha usato quel corpo, l'intelligenza che ha usato quelle membra, la volontà che ha usato quelle membra, quella è spirito. E quella ha il destino stesso di Dio. Dio, somma intelligenza, somma volontà. Dio, tutta anima, tutto spirito. Noi, per questo elemento costitutivo, man mano che passano gli anni, ci impossessiamo del destino di Dio. Ed è giusto che siamo più attaccati alla vita oggi che non quando eravamo ragazzi, scanzonati, spericolati allora. Ah, ma adesso a una certa età, vero che non si fanno più i 150, non si corre più all'impazzata. E se c'è un ragazzo al volante che fa lo scanzonato, lo spericolato, dice: prego, fermati che vado a piedi. Prendo la più sicura, vero? Diventiamo più fedeli amministratori della nostra vita. Perché finalmente abbiamo imparato che la vita è un grande tesoro. Mentre noi per gli acciacchi saremmo tentati di dire: basta, Signore, si è dimenticato di venirmi a prendere? No, non ho sentito mai di queste parole qua. Tutti ci stiamo fino all'ultimo. Perché man mano che gli anni camminano, pare impossibile, ma è così, ci affezioniamo sempre di più. A quale elemento? Che il corpo ormai si fa fatiscente come un muro cadente. A quello che faceva sì che il corpo vivesse. E il corpo vive non per se stesso, vive per la presenza dell'anima. L'anima dice: che persona sono io? Se sono un bauco, un macaco, o se sono furbo, intelligente, se sono un poltrone, o se sono attivo, l'anima. Sono di quelle persone che hanno i muscoli, ma come anima valgono niente, perché non sanno neanche perché sono venuti al mondo, peggio di così. Dice il Signore: guarda che a me l'uomo non piace, sai, per la velocità delle sue gambe. Non calcola il Signore quanto vale un uomo dal peso del suo corpo. No, noi siamo specchiatura di Dio per l'anima. Gli animali non ce l'hanno l'anima spirituale e immortale. L'uomo sì. Difatti gli animali non sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. Gli animali sono orma di Dio, come pesta sulla neve, orma, non immagine. L'uomo sì è immagine. E Dio si è fatto uomo, anche se gli diamo il titolo di agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma intendiamo dire che muore immolato come un agnello buono, innocente. Però Dio si è fatto non un animale, non una pecora, non un uccello, uomo, perfetto Dio, perfetto uomo, perché capissimo che anche noi, pur avendo un corpo che ha i giorni contati, abbiamo uno spirito che è lo spirito di Dio, immortali come Dio.